viene a dire una crisi che non inizia oggi, è una crisi che ormai va avanti da tanto, troppo tempo. Addirittura ci sono analisti cubani che sostengono che la crisi che sta vivendo l'isola altro non è che la continuazione del famoso periodo especial, quando crollò l'Unione Sovietica e con questo l'economia cubana entrò fortemente in crisi, perché è importante ricordare che di fatto dopo l'avvicinamento a Mosca nel 70, siamo ovviamente iniziato prima, l'economia cubana ha gravitato attorno alla vendita praticamente esclusiva di canna da zucchero all'Unione Sovietica a prezzi altissimi, oltre ovviamente alla produzione del tabacco, ma questo ha generato di fatto un sistema poco virtuoso che non si è mai trasformato, ovvero che di fatto Cuba non è autosufficiente nella produzione di cibo e tutto ciò che consuma sull'isola viene importato. Questo che cosa ha determinato? Che l'embargo statunitense da una parte, la fine di questa economia che dava di fatto molto importanti a Cuba e la possibilità tramite alcuni paesi partner come Nicaragua, Messico e Giappone, soprattutto questi tre, ma anche l'Unione Europea, eccetera, Cuba riusciva a comprare prodotti. Con la crisi dell'Unione Sovietica questa cosa è andata in difficoltà, mitigata un pochettino dal supporto del Venezuela negli anni 90, e con il 3 gennaio di fatto con l'invasione, l'aggressione statunitense al Venezuela, questo è saltato. È saltato anche perché quello che sta facendo oggi Trump e gli Stati Uniti è non solo non permettere al Venezuela di vendere più il petrolio a Cuba, ma anche attraverso la minaccia dei dazi vietare a tutti gli altri paesi di farlo. Ed è quello che sta succedendo, perché anche il Messico ha smesso di vendere barili di petrolio, eccetera, eccetera. Quindi questa crisi è profonda e si somma a un'altra tattica, diciamo, controrivoluzionaria statunitense, che è quella della propaganda. Appena il governo cubano, tramite la società del petrolio, ha annunciato che per un mese non si sarebbe dato a La Habana il rifornimento di petrolio, di fatto, di benzina agli aerei, è scattata la notizia che erano bloccati i voli su Cuba. Ma di fatto questo non è vero, perché quello che vediamo a 3 giorni dall'annuncio è che, a parte 3 compagnie canadesi, tutte le altre compagnie volano su Cuba, semplicemente fanno uno scalo tattico, tecnico, tra Repubblica Dominicana e Bahamas. È una guerra anche psicologica, quindi. È guerra anche psicologica, ma la cosa che estrema moltissimo poi le cubane e i cubani è di chi si può fidare, perché da questa battaglia di comunicazione è compreso anche il governo cubano, che ahimè, perché cioè, io lo dico da grande fan della rivoluzione cubana ma non a critico, anche la polarizzazione dell'informazione a Cuba, di fatto dove non è permessa un'informazione critica, che cosa genera? Sfiducia nelle persone, perché da un lato sanno che non si possono fidare e non si fidano la maggior parte delle persone dell'informazione interna cubana, ma non si fidano neanche di quelle esterne. Quindi la grande domanda che si fanno oggi a Cuba è: ma c'è il petrolio? Quanto? Dove? Come? Perché? Come ne usciamo? Perché diciamo che quindi questa crisi, che è una crisi profonda, dove l'embargo, il blocco ha un peso specifico enorme, è anche figlia di errori tattici e politici. Ti faccio un esempio: c'è il problema dell'elettricità, perché appunto non arrivando il petrolio non si riesce a generare elettricità. Ma uno si chiede: com'è possibile che dal blocco del 1962 a oggi non si è sviluppato un sistema di produzione energetica alternativo a quello alimentato dal combustibile? Per un periodo, e fortunatamente, si sono bloccati i tentativi di costruire 2 centrali nucleari, essenzialmente sempre dentro al dialogo e collaborazione con l'Unione Sovietica. Quindi dopo Chernobyl tutto è stato bloccato, e poi col crollo ancora, ma dagli anni 90, per esempio, chi ha i pannelli solari a Cuba ce li ha non perché è un'operazione dello Stato per garantire energia, è un'operazione privata di chi, lavorando col turismo, si è un po' arricchito e se li può comprare. Quindi, dico, è una situazione di crisi profondissima, sociale ed economica, in cui il turismo è l'unica fonte oggi davvero di sopravvivenza dei cubani e delle cubane e del governo, e ovviamente l'attacco al petrolio e questo attacco comunicativo, esattamente come è stato qualche anno fa quando si diceva che a Cuba non si trovava cibo, ma invece a Cuba se hai soldi arriva tutto, addirittura il limoncello, e questo lo dico sempre come battuta, però per far capire che se arriva il limoncello figuratevi se non arrivano le altre cose. Insomma, è una situazione davvero difficile. difficile e drammatica. Citavi Trump, ma come dire, nell'amministrazione americana non possiamo non notare che c'è il segretario di Stato Marco Rubio, che è figlio di esuli cubani, quindi il tentativo è quello di, dopo aver rovesciato il Venezuela, rovesciare anche Cuba? Sì. Ma è curiosa la figura di Rubio, nel senso, perché forse non tutti sanno che lui non è un, lui e la sua famiglia non sono esuli del castrismo, ma esuli di Batista, nel senso che la sua famiglia se n'è andata sotto Batista in scherzo con Batista. Quindi, secondo me, ha accumulato un profondo odio fervente per tutta l'isola, perché prima il dittatore filo-statunitense praticamente l'ha cacciato, dopo c'è stata la rivoluzione e lui è cresciuto con tutto questo odio profondo verso l'isola. E infatti, secondo me, una parte fondamentale di quello che sta accadendo su Cuba non è neanche Trump in sé, che se sul Venezuela aveva un'ottica importante da un punto di vista economico, su Cuba non ce l'ha. Ed essendo Trump un mercante più che un politico, ok, c'è tutta la questione ideologica di abbattere la rivoluzione o meno, ma questo è più un tarlo che ha Rubio e un pezzo dei repubblicani, che sappiamo benissimo hanno sempre visto con grande odio proprio l'isola. E secondo me qui Trump è quasi un contentino che lascia, però poi lo gestisce nella sua maniera, nel senso, in questo momento secondo me la politica estera di Trump è una politica estera di disciplinamento, e quindi cosa sta facendo su Cuba è dire: come io posso di fatto stremare una popolazione lasciandola senza energia elettrica, petrolio e quindi probabilmente anche senza cibo, lo posso fare con i cubani, con le cubane, lo posso fare con tutti.